Sono le 13. Anche le Nazioni Unite criticano il regime di Teheran, oggi contromanifestazione a favore del governo. Dopo il fallito attentato sui cieli americani allo studio negli Stati Uniti, un intervento armato in Yemen. Cala di quasi 4% l'occupazione nelle grandi aziende italiane, il dato peggiore degli ultimi 7 anni. Dopo il gas, alla lista dei rincari per il 2010 si aggiungono carburanti e autostrade. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. C'è ancora la situazione in Iran in primo piano, alle critiche di alcuni paesi occidentali, Stati Uniti e Gran Bretagna in primis, si sono aggiunte nelle ultime ore le preoccupazioni delle Nazioni Unite. La situazione è tesa anche oggi nelle vie della capitale iraniana, dove il governo ha organizzato una contromanifestazione. Ci aggiorna in diretta in studio Vittorio Darold. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Sì, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, si è detta scioccata dai morti e i feriti e gli arresti nel quadro della repressione contro l'opposizione in Iran, e si è appellata all'esecutivo di Teheran affinché cessino queste eccessive violenze delle forze di sicurezza e dei basiji, cioè le forze, la milizia paramilitare. Intanto il governo della Repubblica Islamica ha chiamato la popolazione a una mobilitazione generale contro l'opposizione, con raduni in programma in tutte le maggiori città. La manifestazione più importante pro regime si terrà proprio a Teheran e sembra che su ordine delle istituzioni vi parteciperanno in massa i dipendenti pubblici. Intanto si sono svolti questa mattina in gran segreto e tra strettissime misure di sicurezza al cimitero di Besat Sahara di Teheran i funerali di Ali Habibi Mousavi, il nipote del leader dell'opposizione, ucciso nelle manifestazioni di piazza di domenica nella celebrazione della Ashura, e la cui salma era stata riconsegnata solo questa mattina alla famiglia, dicendo però di restare in segreto e di non avvisare i mass media, e quindi per evitare nuovi scontri nella capitale. Questa dunque è la situazione. Ricordiamo che è molto difficile avere notizie perché è vietato entrare nel paese ai giornalisti stranieri. Vittorio, a questo punto quali ipotesi possiamo fare sugli esiti di questa situazione? Ma secondo gli analisti è l'inizio della fine della Repubblica Islamica come l'abbiamo vista fino ad oggi, cioè come uno Stato teocratico e clericale. La Guardia Rivoluzionaria, che venne creata da Khomeini proprio per evitare che il regime potesse fare la fine di quello dello Shah, cercherà di imporre probabilmente una dittatura militare, ma la popolazione, che lo ricordo è una delle più giovani del pianeta, quasi su 72 milioni sono 40 milioni i giovani, ecco, reagirà e ci saranno scontri e manifestazioni nei prossimi giorni e mesi sempre più violenti. Bene, grazie a Vittorio Darold per gli aggiornamenti e anche per questa analisi. Adesso continuiamo con le altre notizie di GR24. Andiamo negli Stati Uniti. Un'azione contro i terroristi in Yemen sarebbe una delle ipotesi a cui sembra stiano pensando gli Stati Uniti per reagire al fallito attentato di Natale sul volo della Delta diretto a Detroit. Le forze speciali di intervento e l'intelligence americana, assieme ai militari yemeniti, stanno cercando di individuare degli obiettivi per mettere in atto un'azione di rappresaglia contro chi ha organizzato il fallito attentato. Gli ultimi fatti obbligano quindi l'amministrazione Obama a fare delle scelte anche di politica estera sul tema terrorismo. Quali sono? Cristina Carpinelli l'ho chiesto a Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Sta abbandonando Obama la logica meramente militare, però ancora non è chiara quale sia, se ci sia un'altra strategia. Diciamo che sicuramente ci sarà un rafforzamento delle misure di polizia e di sorveglianza, però per quel che riguarda la strategia internazionale bisognerà vedere se Obama riuscirà a fare quello che sostanzialmente dicono i suoi consulenti, e cioè ottenere una migliore cooperazione di polizia e una migliore cooperazione di intelligence da a parte degli alleati chiave, che possono essere fondamentali per sconfiggere questo nuovo tipo di terrorismo e che sono poi sempre paesi difficili come il Pakistan, come l'Arabia Saudita, come lo Yemen e così via. Devo dire che all'atto pratico, malgrado tutto, il terrorismo internazionale sembra essersi indebolito, malgrado questo suo tentativo di passare all'offensiva, perché non è un'offensiva del tipo così pericoloso come quella all'inizio di Al Qaeda. Intanto è acceso il dibattito politico negli Stati Uniti. New York Times e Washington Post hanno elogiato il presidente Obama per avere parlato molto chiaramente di errore di sistema del mancato attentato. Il sistema fallisce, è il titolo dell'editoriale che il New York Times dedica alla scelta di Barack Obama di andare davanti alla stampa a dire, senza troppi giri di parole, che nel mancato attentato sul volo Amsterdam-Detroit c'è stato un errore di sistema del tutto inaccettabile. Rovesciando la strategia fin qui seguita, Barack Obama ha ammesso l'errore e ha aggiunto che le procedure vanno riviste e corrette il più presto possibile. Ad elogiare il presidente anche l'altro maggiore quotidiano americano, il Washington Post, che da giorni criticava l'eccessiva minimizzazione di quanto accaduto. Obama, che stiamo sentendo, ha dichiarato che i servizi di informazione erano in possesso di numerosi elementi concernenti il volo Amsterdam-Detroit e ciò avrebbe dovuto far scattare un allarme. A systemic failure has occurred, and I consider that totally unacceptable. The reviews I've ordered will surely tell us more. Quando il governo ha informazioni su un noto estremista, ha detto Obama, e tali informazioni non vengono condivise, non si agisce in base ad esse, cosicché questo estremista sale a bordo di un aereo con dell'esplosivo in grado di uccidere 300 persone, allora si è verificato un errore di sistema del tutto inaccettabile. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Il Ministero degli Esteri spagnolo ha confermato che uno dei tre cooperanti sequestrati un mese fa da Al-Qaeda in Mauritania è stato ferito durante un tentativo di fuga. Secondo le informazioni in possesso del Ministero, l'uomo è stato colpito da tre proiettili alla gamba sinistra. In Mauritania, lo ricordiamo, sono stati rapiti anche due italiani per la cui liberazione sta lavorando il Ministero degli Esteri italiano. Adesso le notizie dall'Italia. L'occupazione nelle grandi imprese a ottobre è diminuita dell'1,9% rispetto allo stesso mese del 2008, ma invariata rispetto a settembre 2009. Secondo i dati Istat, al netto della cassa integrazione, il calo annuale è del 3,7%. Sempre del 3,7% è il calo registrato nelle grandi imprese. Si tratta del dato peggiore da novembre 2002. Altri dati Istat riguardano l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente e diminuito del 3,1% rispetto al mese di novembre 2008. Ora parliamo degli aumenti previsti dal primo giorno dell'anno. Aumenterà il prezzo del gas per scaldare le case o preparare da mangiare, ma nella lista dei rincari ci sono anche carburanti e pedaggi autostradali. Il 2010 parte in salita per chi guida l'auto. Dal 1 gennaio vengono infatti alzate le tariffe di pedaggio autostradale delle società concessionarie. Il rincaro è del 2,4% per Autostrade per l'Italia, la concessionaria del gruppo Atlantia che gestisce la principale rete autostradale italiana. Ma questi ultimi giorni dell'anno si stanno già rivelando amari per gli automobilisti. Dopo il forte balzo in avanti deciso ieri da Agip, oggi tutte le altre compagnie si sono adeguate, posizionandosi intorno a 1,325 euro al litro per la benzina e 1,169 per il gasolio. Secondo la Staffetta Quotidiana, che monitora i prezzi dei carburanti, la benzina è aumentata tra 10 e 16 millesimi e il gasolio tra 5 e 20. Ieri invece sono stati annunciati i ritocchi per le tariffe di gas e luce. Dopo un anno di ribassi, il prezzo del gas è tornato a crescere. Dal 1 gennaio le tariffe aumenteranno del 2,8%. In calo invece l'energia elettrica, meno 2,2% per il primo trimestre 2010. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E ammonterebbero a poco meno di 300 euro l'anno i rincari che gli automobilisti subiranno in media nel 2010. L'hanno calcolato le associazioni dei consumatori. Sentiamo Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Riteniamo che ci siano dei balzelli assai gravi da pagare per un automobilista e la benzina sta di nuovo aumentando a livelli insostenibili e abbiamo calcolato circa 90 euro all'anno. Poi vi sono le tariffe autostradali che sono aumentate in media del 3,5% e anche questa sarà una ricaduta su chi possiede un'automobile e oltretutto c'è un aumento importante dell'RC auto che graverà sulle spalle dell'automobilista. Sono gli agenti, le stesse agenzie di assicurazione che hanno denunciato in una conferenza stampa insieme a noi questi aumenti dell'RC auto. Quindi sull'auto ricade la benzina, l'autostrade, l'assicurazione auto, insomma, speriamo che non aumentino le gomme, ecco. Adesso cambiamo argomento. Continua il dibattito sul futuro dell'agonizzante compagnia di bandiera giapponese. Il governo del Giappone ha deciso di mettere a disposizione della Japan Airlines un nuovo prestito pari a 55 miliardi di yen. Lo Stato sosterrà la compagnia fino a metà gennaio, quando è prevista una delibera sulla ristrutturazione del gruppo. Un'altra notizia che arriva dall'Italia: è stato dimesso poco fa dal Policlinico di Modena Davide Manfredini, il figlio 43enne dei coniugi modenesi aggrediti a coltellate la notte della vigilia di Natale a Brodano di Vignola dal parroco Don Giorgio Panini, che viveva da molti anni con loro. Resta invece ricoverata nel reparto di rianimazione la madre Paola Bergamini, moglie di Sergio Manfredini, l'uomo ucciso dal sacerdote. Le condizioni della donna sono stazionarie, anche il parroco rimane in ospedale. Ed ora il consueto appuntamento con il sondaggio di Radio 24. Era naufragato negli anni passati il tentativo di intitolare una via a Bettino Craxi nel capoluogo lombardo, ma Letizia Moratti, sindaco di Milano, non ha accantonato l'idea. E invitati a esprimere la propria opinione, l'80% di coloro che ha preso parte al sondaggio di Bianco o Nero ha votato no. Il 20% invece vedrebbe di buon occhio una via per l'ex leader socialista. Intanto nel dibattito italiano non sono stati solo i magistrati protagonisti di Mani Pulite, da Di Pietro ad Ambrosio a Borrelli, a dirsi contrari. Spaccatura anche tra gli alleati della Moratti. Prende le distanze la Lega per bocca del suo capogruppo Matteo Salvini. Una volta all'anno, se non torna fuori il dibattito dell'intitolazione di una via a Craxi, qualcuno non è contento, e come ogni anno la Lega è costretta a dire che ci sono altre centinaia di milanesi illustri che hanno fatto grande Milano senza intascarsi nulla, che meriterebbero prima di Craxi una via, una piazza, un giardino. Irene Zerbini, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura i ritratti che stiamo dedicando in questi giorni ai personaggi dell'anno. Oggi parliamo di Michael Jackson. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. 29 agosto 1958, 25 giugno 2009, 51 anni di vita, 45 di carriera. È la parabola umana e artistica di Michael Joseph Jackson, cantautore, ballerino, coreografo, produttore discografico, attore, sceneggiatore e imprenditore, qui ricordato tra le lacrime dalla figlia Paris ai funerali. La carriera del re del pop inizia nel 1963, a soli 5 anni, nel gruppo di famiglia Jackson 5. Ladies and gentlemen, would you agree? The Jackson 5! Nel 1979 arriva l'esordio da solista. L'album Thriller del 1982 stabilisce il record di più venduto nella storia della musica e vince 8 premi Grammy. Con oltre 750 milioni di dischi venduti, Michael Jackson è annoverato tra i più quotati artisti musicali solisti, secondo soltanto ad Elvis Presley. Sentiamo un frammento di Thriller. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Nel corso della sua carriera non sono mancate le occasioni di beneficenza. Nel 1985 scrive We Are the World con Lionel Richie. Il singolo serve a raccogliere fondi contro la fame nell'Africa orientale ed è stato premiato con un Grammy come canzone dell'anno. Inoltre risulta uno dei singoli più venduti della storia, con oltre 20 milioni di copie. Non mancano però anche i problemi giudiziari. Nel 1993 Michael Jackson viene per la prima volta accusato di molestie sessuali. Jordan Chandler, figlio di un dentista, accusa Jackson di abusi sessuali su minori. Da Neverland Jackson si dichiara totalmente innocente. Were you aware that Jordan Chandler or his family on his behalf filed a litigation, a lawsuit against you? Yes. È l'inizio della parte discendente della parabola artistica di Michael Jackson. Alle vicende giudiziarie si affiancano anche quelle economiche, con un aumento smisurato dei debiti che lo costringono dapprima a vendere il catalogo delle canzoni dei Beatles e poi alla cessione del ranch Neverland. Ma proprio quest'anno Jackson aveva mostrato la voglia di uscire da questa spirale con l'annuncio del tour mondiale che solo la morte ha interrotto. Ma proprio la morte, paradossalmente, ha mostrato quanto grande sia ancora l'appeal, soprattutto economico, di Michael Jackson. Lo si è visto con il nuovo brano This Is It e il filmato tratto dalle prove del tour, entrambi con vendite straordinarie. This is it. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed era questa l'ultima notizia. Carmelo Lauricella si è occupato della parte tecnica per questa edizione di GR24. Sono le 13:15 minuti, 40 secondi. Chiudiamo con una notizia che farà invidia a molti che abitano al nord, dove le temperature minime sono sempre vicine allo zero. Invece alle 12 a Palermo la temperatura ufficiale registrata era di 25 gradi, anche se le colonnine di mercurio non ufficiali registrano temperature ben più alte, anche di 27 gradi. La notizia arriva dall'agenzia Apicom. È tutto, edizione curata e condotta da Enrico Pagliarini. La prossima alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.